La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Prima di tutto devi considerare che, come al solito, i concorrenti saranno almeno... So quelli che so. Hai capito, Giovanni? Dico, i concorrenti sono almeno 20.000. Ma lui è mio figlio. In fondo io, dopo tanti anni, che cosa chiedo? Non chiedo mica tanto. Avere per lui, ecco, un occhio di riguardo. Giovanni, oggi, per la legge, i nostri figli sono uguali al figlio di un tassinaro, di un muratore. Perché non lo so, ma è ingiusto. Me lo devono prendere. In fondo il ministero mi deve 30 anni di fatica. L'ospite di questa sera è Massimo D'Apporto, in scena al Teatro Eliseo di Roma sino al 5 novembre con Un borghese piccolo piccolo, del quale vi abbiamo fatto sentire un estratto in apertura. Un estratto di questo film di Monicelli, che aveva come per protagonista Alberto Sordi, che interpretava Giovanni Vivaldi, un impiegato del ministero che in fondo incarnava il peggio di un certo modo di essere, di vivere, un certo modo di vivere che fa leva sul perbenismo, che nel caso dell'opera in questione arriva a toccare punti di vero orrore. Un ruolo, quello di Vivaldi, che lei D'Apporto reciterà in teatro. Allora, la prima domanda è: come avviene questa scelta? Mi ha contattato il regista che ha fatto anche la riduzione dal romanzo alla scena, che si chiama Fabrizio Coniglio, e mi ha fatto leggere il lavoro che lui aveva fatto sul testo di Cerami. La cosa mi ha interessato subito molto, anche perché non avevo ancora letto il romanzo di Cerami, però avevo visto il film un paio di volte. Io so benissimo che quando dei lavori così vengono interpretati da grossi attori del passato, chiamiamoli, però è ancora un contemporaneo nostro, Alberto Sordi, è chiaro che ci si domanda sempre: ma come mai ha deciso di fare questa cosa? Ma io in effetti sapevo che potevo andare incontro sempre al... Però leggendo il romanzo di Cerami mi sono reso conto che il personaggio di Giovanni Vivaldi poteva essere raccontato anche in un'altra maniera. E allora ho lavorato proprio su questo. Non credo di fare nessun riferimento al... oppure che ci si ricordi il film vedendo questo spettacolo, perché penso che chi ha conosciuto Un borghese piccolo piccolo, che non l'abbia letto ma che abbia visto soltanto il film, troverà un'altra storia che ricorda sempre quella del borghese piccolo piccolo. Però forse noi siamo più aderenti al romanzo di Cerami di quanto lo è stato il film. Oggi come oggi è il romanzo di Cerami ad essere più attuale, cioè rappresenta e tocca di più quegli aspetti. Io spero che tra 20 anni non sia così più attuale, però sono passati dal 75, da quando è uscito questo lavoro, ad oggi sono passati 40 anni. Non credo che il costume e la vita italiana siano cambiati molto, anzi forse si sono sofisticati per quanto riguarda la delinquenza, si sono organizzati meglio. Una volta era una delinquenza più naif, adesso è più scientifica come delinquenza, insomma. E allora il pubblico si riconosce, cioè non è che vede una storia del passato, no? Una cosa che ormai è stata superata, siamo in pieno periodo in cui queste problematiche si sentono di più, ossia i posti di lavoro per raccomandazione, la giustizia fai da te, perché chi viene colpito da una disgrazia non trova giusto la sentenza data dai tribunali, insomma non è convinto che la legge sia uguale per tutti, alcune volte non è così. E allora questo personaggio, che alla fine si rivela un personaggio negativo, questo di Vivaldi, il pubblico sta dalla sua parte, perché si riconosce in questo italiano piccolo piccolo, che poi in effetti è molto emblematico come personaggio riguardo a noi tutti italiani, con i nostri difetti più che con le nostre virtù. Che poi è questa la cosa terrificante, no? Il ritrovarsi in quel personaggio, cioè sì, sì, ma è, il coincidere, no? Con... Sì, ma è terrificante perché il pubblico applaude, soprattutto in una scena dove in effetti questo compito che gli viene passato per il figlio, no? per gli esami del figlio, per questo concorso, lui porta a casa il compito che gli è stato passato dal suo capo ufficio perché è entrato a far parte della massoneria, e c'è questa festa a casa di una truffa nei confronti delle altre persone, degli altri concorrenti, una truffa nei confronti dello Stato. Eppure il pubblico applaude, quello è terrificante, perché in effetti è un microcosmo questa famiglia composta da madre, figlio e padre, e tutti tesi al fatto del figlio che deve entrare al ministero, e accettano qualunque compromesso, anche quello di avere il compito già preparato, e c'è la festa in famiglia per questo compito che è arrivato sotto banco. Io mi domando quante famiglie italiane farebbero lo stesso, forse il 90% lo farebbe, il fatto di avere la tranquillità che il figlio superi l'esame attraverso il compito passato in maniera disonesta. Nel suo caso, no, nel suo percorso, lei non è cresciuto invece in una famiglia, diciamo, tipicamente borghese, medio borghese, nel senso che suo papà era un... Esatto. E questo quanto l'ha aiutata a rompere gli schemi? Perché so che lei a un certo punto ha lasciato l'università, ha deciso comunque, contro il parere di suo padre, che era un grande attore, di recitare. Ecco, questo secondo lei quanto ha inciso? Le cose mi sono venute addosso, sinceramente. Io sono un carattere abbastanza tranquillo, finché non mi inalbero come tutti i tranquilli, che pure sono stato fortunato in vita mia. Per cui è stata una piccola spinta quella di dire: adesso io finisco il servizio militare e faccio e tento la carta dello spettacolo. Però faceva parte dei miei sogni e si sono realizzati, ma non credo che dipenda da un fatto della famiglia quanto abbia influito. Io avevo il mio mondo, io sono sempre stato uno che da ragazzo magari mi isolavo, leggevo, avevo pochi amici, molto forti, ma pochi amici, e mi sono formato nella tranquillità che mi ha dato questa famiglia, una tranquillità economica. E poi arrivato a 23 anni ho pensato, dico, ma io mi devo svincolare, insomma, in qualche modo devo cominciare a realizzarmi come ometto, come persona, e ho preso delle decisioni che potevano essere anche dei fallimenti, perché il sogno di far l'attore può essere un fallimento enorme. Io devo ringraziare veramente questo elemento che è la fortuna, che deve entrare a far parte della tua vita assieme se c'hai talento. Se c'hai talento e fortuna, puoi avere una vita di successo. Se hai talento senza fortuna, ci metti tre volte tanto ad avere un successo. Perché suo papà non voleva che lei facesse l'attore? Io credo che avesse riconosciuto in lei il talento. Quali erano le ragioni che lo portavano a dire no, non andare? Cosa lo spaventava di questa... Lo spaventava l'esperienza che lui aveva vissuto come attore. Insomma, mio padre non ha avuto una vita facile come me. Mio padre ha fatto veramente la fame. Mio padre andava a dormire certe volte con un caffè latte e una brioche, insomma, quando si è allontanato dalla sua famiglia, che ha abbandonato Sanremo ed è andato a Milano. Mio padre, ricordando quel periodo che era degli anni 30, fine anni 30, 40, spesso si commuoveva, insomma, se parlava di quel periodo fino alle lacrime, perché io poi gli ho detto non voglio niente, la mia prima paga è stata il 4 gennaio del 71, che è lo stesso giorno in cui io mi sono sposato la mattina e il pomeriggio e cominciamo a entrare in paga. Ma comunque... E che cos'è che faceva nel pomeriggio? Facevo uno spettacolo, il primo lavoro che ho fatto è stato con Andrea Giordana, Alida Kelly, Marina Berti, io facevo una parte piccola, è perché avevo vinto un provino per fare questo personaggetto, ma era piccolo, entravo nella seconda parte del terzo atto, tanto è vero che mia moglie era preoccupata perché le parlavo di teatro, lei che era veramente a digiuno di teatro, e non mi vedeva entrare in scena, pensava che fossi scappato il primo giorno del matrimonio. Là erano tutte scoperte nuove per uno che fa questo mestiere, era la prima volta che prendo una stanza in un hotel, è una scoperta, nel senso che in cosa consiste questo lavoro dell'attore, soltanto di andare in scena? No, devi scoprire quali sono i migliori qualità prezzo dei ristoranti e degli alberghi. L'attore in alcune cose è un borghese piccolo piccolo anche l'attore, nel senso che si deve dare da fare per sopravvivere, per riuscire a guadagnare, mettere dei soldi da parte, allo stesso tempo spendere il giusto. Questo lo dico quando sei agli inizi, questi sono consigli per quelli che fanno la gavetta. Ora ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo. Entra nel mondo radiofonico e televisivo con le nuove competenze 4.0. Master full time della Business School del Sole 24 Ore e Radio 24. Radio, TV e web content. Con diploma e stage. A Milano dal 27 novembre. Per candidarsi alle selezioni e borse di studio, www.radiomaster.ilsole24ore.com. La prima volta. I cavalli. A proposito di cavalli, è buona quella di quel signore che insisteva con la moglie per portarla alle corse dei cavalli. Non voglio andare alle corse dei cani. No, andiamo alle corse dei cavalli, su. Voglio andare alle corse dei cani. Ma non sei mai voluta venire alle corse dei cani? Perché vuoi andare oggi proprio alle corse dei cani? Dice, voglio vedere quanto sono piccoli i fantini. È buona quella dei due amici che si incontrano per la strada. Ciao, come stai? Sono anni che non ci vediamo. Ti ricordi? Mi ricordo, sì. Quanti anni? Come va? Non c'è male, sì. Sì, siamo qui. Nel 40 stavo tanto male. Dice, come mai? Dice, porto il 42. Ben ritrovati, la voce inconfondibile di Carlo D'Apporto in un pezzo di repertorio Rai. Carlo, padre di Massimo D'Apporto, che è l'ospite di questa sera, cercò in ogni modo di dissuadere il figlio dal diventare attore, ma gli sforzi non valsero e Massimo negli anni 70 cominciò la sua carriera, che dal teatro lo ha poi portato al cinema, alla televisione, al doppiaggio. Diceva sempre mio padre, la sera quando torni a casa devi avere almeno 1.000 lire in più in tasca, per dire, non devi spendere più di quello che guadagni. E in questo inizio ci sono stati degli incontri fortunati, perché lei ha parlato appunto di fortuna, cioè c'è qualcosa che poi l'ha spinta a andare veloce al successo? Sì, ma ho dovuto fare una gavetta abbastanza lunga, sono andato avanti dal 71 fino all'84 facendo spesso teatro, anche ruoli più grossi, anche più grandi, però finita la tournée si ritornava nell'anonimato, si conoscevano, c'era giusto un pubblico teatrale che ti aveva visto lì, però finché non, io avevo il nome, io avevo il cognome più grande del nome, io avevo D'Apporto che era, suonava bene, ma Massimo che è il figlio, ecco, siamo i soliti figli raccomandati. Invece no. È andato via prima. Quindi fino all'81, diciamo, va avanti con questa gavetta. E poi cosa succede? Fino all'84 ho fatto gavetta. Nell'84 ho conosciuto in una sala di doppiaggio, perché facevo doppiaggio anche. Per 2 anni feci soltanto doppiaggio. Facevo anche gli adattamenti, dialoghi per film e tutto. Nell'84 ho conosciuto un regista che doppiava un suo film nella sala di doppiaggio accanto dove lavoravo io, che era Steno. Steno era un regista storico del cinema italiano, per dire, cambiano le cose, nel senso che una volta non si sarebbe mai detto che Steno era il papà dei fratelli Vanzina. Una volta si diceva, quelli sono i figli di Steno, ecco. Invece adesso, per ricordarsi Steno, uno deve ricordarsi mio padre di Vanzina. Ci siamo parlati durante una pausa e lui mi ha fatto dei complimenti perché mi aveva visto due anni prima in teatro, poi il giorno dopo altri complimenti, ho detto se permette le mando le foto, se c'è un film che parte, lo ha detto molto volentieri, se c'è un mio film io la prendo in considerazione molto volentieri. L'ho detto all'agenzia questa cosa, al mio agente, chiamiamolo il mio agente, gli ho detto, dico, se sai che c'è un film di Steno, mandagli le foto. E lui ha mandato le foto dopo 3 giorni, ha già mandato le mie foto. Dopo 10 giorni mi dice, qua subentra la fortuna, dice, guarda, hanno visto le tue foto, sono interessati, dovresti andare al Provino che si tiene a Cinecittà, al Teatro 3, e chiedi di Scola, per fare, ti farà il Provino. E dico, ma Scola, Ettore Scola, dico, io non lo conosco, io ho parlato con Steno. E lui mi dice, no, tu mi hai detto Scola. Fantastico. E io ho detto, dico, ma io che ci vado a fare il Provino con Scola, che non mi conosce. Sapevo pure che era un po' burbero Scola. E ho detto, dico, vabbè, ci vado. Ci sono andato così, rilassato, perché sapevo che avrei perso. Che cosa vado a fare? Ci stanno andati. Sono andato, ho continuato a visionare, a cambiarmi, a invecchiarmi, a cambiare la pettinatura e tutto, e poi ho fatto insieme alla famiglia. Da là è partita un'altra carriera, diciamo, è partito tutto dal film La Famiglia. Questo è il giorno del mio battesimo, festeggiato nella casa del nuovo quartiere Prati, appena acquistata a riscatto da mio nonno. Tra 20 anni sarà nostra. Nel gruppo in posa per la fotografia di rito, mio nonno è quello seduto in poltrona e io sono quello infilato nel porte-enfant. Mi tiene precariamente fra le braccia la piccola Adelina, nipote della nostra domestica, Nunzia, che si intravede nel fondo, sulla destra. Questa signora con gli occhi celesti è mia madre. Prima di sposarsi studiava canto. E così la sera non mi fa addormentare con le solite ninne nanne, ma con le romanze e con le arie delle opere liriche. Zia Millina, zia Margherita e zia Luisa sono sorelle di mio padre, tutte e tre nubili. Questo è il dottor Giordani, nostro medico di famiglia. Scapolo. Mio nonno, professore di lettere all'Università di Roma. Rigoroso poeta dilettante, fiero detrattore del Carducci, del quale ama ripetere il leone repubblicano è diventato il barboncino della regina. Cosa diventerai? Un genio o un imbecille? Quante storie. E diventerà un figlio di Dio. Come carriera un po' modesta. E quindi, per un disguido d'apporto, finisce per avere un ruolo centrale nel film di Scola, La Famiglia, e da lì tutto andrà avanti. Da quel momento mi sono arrivate altre proposte di cinema che sono andate avanti fino al 92 e poi ho attaccato con la televisione da quando ho cominciato a fare quella serie del medico pediatra di amico mio, e poi ho fatto altre serie, tante, ne ho fatte sinceramente tante. E poi sono tornato a fare teatro perché sinceramente mi sono reso conto che i ruoli che facevo fino al 2004-2005 incominciavano a diminuire, non me l'avrebbero più offerti anche per raggiunti i limiti d'età, insomma hanno incominciato a dirmi guarda c'è un bel nonno qua a me. Beh, piccoli ruoli, ho detto no, lascia aperto, io continuo col teatro perché il teatro faccio i ruoli che voglio io, insomma, che mi piacciono di più, che mi gratificano, ecco. Uno dei suoi, delle sue interpretazioni che a me almeno è rimasto più dentro è Il Mignone Partita, per il quale poi lei ha ricevuto anche il Davide di Donatello come attore non protagonista. Io avevo già lavorato con Stefania Sandrelli e poi ci siamo ritrovati sul set dell'Archibugi. È stata un'esperienza oltretutto divertente perché mi sono trovato su un set una troupe cinematografica formata solo da donne, e dall'operatrice alla macchina, la regista, l'assistente, tutti erano donne, per cui mi divertiva molto la situazione. perché quando io o altri maschietti arrivavamo sul set facevano le considerazioni che facciamo noi nei confronti delle donne, capito? Se era arrivati anche a darti la pacchetta sul sedere. No, non è possibile. Senta, l'ultima domanda, cosa le manca, se c'è qualcosa che le manca del passato? Devo dire sinceramente, quello che mi manca, riuscire di nuovo ad abbinare il lavoro teatrale con un bel film o una bella fiction in televisione. Ecco, questo mi manca. La prima volta termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, l'appuntamento è domenica sempre alle 23, oppure potete venire a riascoltare le nostre puntate sulla pagina di Radio 24, cercate La prima volta, indirizzo email laprimavolta@radio24.it. Buona domenica a tutti da Cristina Carpinelli.